Radio Azione. Radioazione.org. Radioazione. Con l'informazione, le cure, provocazioni, musica. Radioazione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, lettura, provocazioni, musica. We'll be right back. Radiazione 3 ottobre, venerdì 3 ottobre 2014, diretta d'azione come ogni venerdì che interesserà, si interesserà per la quasi, no, totalmente, non quasi, né per la metà o per una parte, totalmente si interesserà di controinformazione. Poi ovviamente ci saranno qualche riflessione, qualche provocazione che sulla radiazione purtroppo non manca per chi soffre di delle provocazioni. Insomma, invece per l'appuntamento con la lettura, lo ricordo, è lunedì prossimo, che non mi ricordo, dovremmo avere 6 lunedì 6, quando con me ci sarà Marcello e si leggerà, sarà giorno di controinformazione, letture e musica. Letture, lo ricordo, stiamo leggendo Nessuno ci salva di Sergiusz Piasecki, e invece io continuo a leggere Nazero 13. Un giorno, prima o poi, riuscirò a farlo uscire insieme al CD Benefit per i compagni detenuti. Ricordiamo gli indirizzi utili per radiazione: radiazione@autistici.org per chi vuole mandare qualsiasi cosa che vuole far pubblicare sul sito di radiazione, ovviamente con le direttive date una ventina di giorni fa. Vedete sul sito di radiazione c'è un articolo in cui ci sono le cose che non verranno mai pubblicate sul sito, quindi dateci un'occhiata prima di mandare e prima che qualcuno si incazza e dice: ma perché non hai pubblicato? Se uno legge la reazione poi si rende conto perché non vengono pubblicate certe cose. Non è un fatto, è dare un'impronta anche al sito. Allora, quindi chi vuole mandare materiale lo fa a radiazione@autistici.org, invece il sito dove potete leggere la controinformazione aggiornata è radiazione.org, dove potete scaricarvi il materiale che altri compagni hanno spedito da far circolare gratuitamente, perché le idee non hanno un prezzo, e dove potete anche riascoltarvi le dirette d'azione attraverso i podcast. Ci sono i podcast da 2 anni e mezzo a questa parte, quindi potete farvi 2 coglioni o 2 ovaie, così. Ricordo che radiazione è anche in lingua croata, c'è il banner sul sito di radiazione in italiano, ci cliccate sopra e vi si apre radiazione in lingua croata. Per chi capisce croato, ovviamente, per chi non lo capisce, ritornasse all'italiano. La radio trasmette sul server anarchia.net, messa a disposizione dal compagno di The Anarchist Library, che saluto e ringrazio sempre per tutto l'aiuto che ci dà costantemente, non solo quando è stato trasportato il tutto sul suo server, ma proprio costantemente su ogni cazzo ci dà un aiuto. Allora, prima di partire ci ascoltiamo un brano che ancora non ho scelto, e poi dopo si torna qui e si parte con la diretta d'azione e la prima notizia di controinformazione della giornata. One of the most blatant excessive force that I have ever seen. Perché di questa cazzata? Perché di questa cazzata? È perché ieri a Napoli si è tenuto il vertice della BCE, dove per l'ennesima volta qualcuno ha cercato di riciclarsi, qualcuno che aveva fatto perdere le proprie tracce aveva cercato di tornare in vetta ad un movimento che non si sa di quale movimento parla, però ha cercato di uscire dalla tomba per l'ennesima volta. Di chi parlo? È facile. Chi parlo? Parlo di quelle persone che, vabbè, ora leggiamoci un attimo il testo che ho scritto su Radiazione e poi dopo capirete di chi parlo, a chi appartiene questo circo. Allora, dicevo, lo scritto di Radiazione, il prossimo scritto di Radiazione, che parla di tre argomenti. Praticamente in questa settimana c'è stata l'approvazione per il momento per quanto riguarda l'emendamento sull'utilizzo da parte degli sbirri di alcuni oggetti di controllo, uno di controllo e l'altro può essere anche di omicidio. Si parla di telecamere indossabili di controllo e pistola taser, la pistola elettrica, quella che ha fatto quasi 900 morti negli Stati Uniti, e la BCE, il vertice della BCE. Allora, dalla stampa borghese infame si apprende che è di oggi l'approvazione dell'emendamento per l'utilizzo da parte degli sbirri delle pistole elettriche taser e delle telecamere indossabili. Quest'ultima è una paraculata legalizzata, dato che le usano da anni con i loro ispettori gadget del cazzo, che hanno anche negozi e ditte in tutta Italia per la vendita di microspie di ogni genere. Sappiamo benissimo gli effetti della taser, specialmente negli USA, e oramai siamo abituati ad essere controllati dalle telecamere fin dentro le mutande. Ma ciò non significa che abbiano trovato un modo per fermare i non sottomessi, ma solo un modo per fare qualche morto in più. Proprio qualche settimana fa a Napoli c'è stata l'ennesima dimostrazione di quanto siano stati capaci di fare due carabinieri che inseguivano uno scooter con a bordo due ragazzini minorenni. Gli sbirri prima hanno buttato fuori strada con l'auto, lo scooter, e poi, non contenti, siccome i ragazzini erano così tanto pericolosi, hanno pensato di esplodere contro uno di loro i proiettili delle loro pistole. La solita scusa è stata: eravamo spaventati dai ragazzini. La stessa dello sbirro Mario Placanica, che sparò e ammazzò Carlo Giuliani a Genova durante gli scontri del G8, e la stessa utilizzata dall'altra merda dello sbirri Luigi Spaccarotel, che sparò da una corsia all'altra di un'autostrada verso un'auto in sosta all'autogrill dove dormiva un tifoso che si recava allo stadio. Nel rione Traiano a Napoli, quartiere del ragazzino ammazzato da carabiniere, la gente insieme ai soliti pompieri politici napoletani hanno urlato «Vogliamo giustizia!». Non è tardata la risposta da parte dello Stato, che darà in dotazione il Taser, che negli ultimi 13 anni ha provocato la morte di 864 persone e la maggior parte delle vittime era disarmata. Inoltre il Taser può essere letale per le persone che soffrono di disturbi cardiaci. Sicuramente le telecamere indossabili saranno sperimentate nel vertice della BCE del 2 ottobre a Napoli, quindi ieri. Forse capita a pennello questo emendamento presentato dall'esponente di Forza Italia Gregorio Fontana proprio in avvicinamento della data in cui sperano che i fuochi illuminano la loro vetrina. Forse sperano che qualche vetrina rotta e banca incendiata gli crei la cornice giusta perché si parla del loro vertice. Sicuramente avranno alcuni inviti accettati, ma da parte di chi è morto insieme a loro dopo il trend dei vertici dei primi anni del 2000. Da parte di chi dopo Genova è andato a fare il portaborse dei politici in Parlamento, sedendo accanto a chi aveva dato ordine di ammazzare a Carlo Giuliani. Da parte di quel movimento che una volta si chiamavano disobbedienti e nei vertici sfilavano con scudi di plastica e bastoni di cartone, creando finti scontri con gli sbirri e mettendo a rischio la salute fisica di tanti ragazzini delle scuole superiori. Questi hanno bisogno di parlare di BCE ora, quelli che appoggiano i politici di sinistra in Italia che in questo periodo o nei precedenti hanno sempre avuto a cuore la salute della BCE. Ma la BCE, per chi non ha bisogno di rifarsi il trucco ed è sempre stato convinto della distruzione del putrido esistente, è presente in ogni istante nella miseria creata quotidianamente sulla pelle di tutti noi. Sarebbe l'ennesimo sbaglio cadere nella loro chiamata trappola del 2 ottobre a Napoli, e se proprio ci tengono ad illuminare la loro vetrina, beh, su questo possono starne certi, che potrebbe capitare in ognuna delle 365 giorni notti dell'anno, ma non quando lo decidono loro. E questo è il testo scritto qualche giorno fa di mio pugno. Un po' ero partito per parlare della Taser, come al solito quando parto per parlare di una cosa, come quando si fa voce anche con la tastiera, no, con la penna. È una vita che non scrivo con la penna un testo, a meno che non mi faccio gli appunti, ma la penna l'ho buttata purtroppo. Allora qualcuno mi criticherà, però è così, purtroppo è così, oramai si scrive tutto tramite tastiere, qualsiasi tastiera, tastiera del computer o tastiera del cellulare, ma la penna mi sa che sta perdendo i colpi. Allora, dicevo, avevo iniziato a parlare per quanto riguarda l'emendamento che praticamente arricchisce di nuove armi gli sbirri, specialmente in occasioni come quelle del vertice che c'è stato ieri qui a Napoli con le telecamere indossabili. E questa è una grande cacata, una grande puttanata, l'hanno voluta far passare, l'hanno voluta legalizzare, ma comunque da tempi dei tempi le telecamere indossate dagli sbirri ce ne sono sempre state. Fatto sta, tutti gli scontri, tutti gli arresti che sono avvenuti in seguito agli scontri, perché gli sbirri indossavano le telecamere. Ora non ce l'avevano sulla tutina, ma ce l'avevano in mano. Significa indossare. Ecco, cioè, o lo metti addosso, o ce l'hai in mano, la indossi uguale. Quindi è una bella cacata, una bella trovata per legalizzare una cosa che forse prima era illegale, e poi se ne sono accorti e ho detto: oh, ma così può essere che qualcuno in sede processuale vado a scoprire questa cosa illegale, quindi l'hanno legalizzata. Il Taser invece è conosciuto, ha fatto morti non solo negli Stati Uniti, sono il territorio in cui ha fatto più morti. Ricordo, la Taser è una pistola elettrica, praticamente anche a distanza, ora non so la distanza a cui colpisce, comunque da una scarica elettrica al bersaglio, e lo immobilizza fino a quando non arrivano gli sbirri e lo arrestano. In America è usata da anni, infatti io ho riportato dei numeri, diciamolo sinceramente, li ho presi dal sito di Amnesty International, che a noi fa cagare, però ogni tanto qualche dato, qualche cosa, sicuro ce l'hanno. E quindi il dato l'ho preso da là, ma non ha fatto solo morti, ha fatto morti in Svizzera, mi ricordo beh, da anni fa, l'uomo all'aeroporto fermato per una cazzata, gli hanno sparato con la taser e il poveraccio è morto. Insomma, no, come non basta, invece delle pistole ora ti fulmino sul corpo una bella scarica elettrica. Una volta ti arrivava una pistolettata in fronte da una camionetta mentre tiravi un estintore, ora appena lanci l'estintore ti arriva una scarica elettrica, muori lo stesso, il pericolo è lo stesso. Forse all'epoca, cioè, col proiettile muori prima, qua soffri pure. E infatti sono belli sadici sadici i nostri sbirri. Per quanto riguarda il vertice della BCE, si è tenuto ieri, non posso parlarne approfonditamente perché non ci sono, di fatto non ci sono stato, perché di fatto non mi interessava starci perché hanno ripreso il via a chiamare i vertici del cazzo. Ora loro vogliono un'altra volta rimborsare le chiamate, chiamare manifestazione su manifestazione, fare ulteriori arresti, approfittare degli arresti per poi allargare il giro. Insomma, c'è da fare un bel po' di analisi sul fatto se c'è proprio bisogno di partecipare a questi vertici, o meglio starsene a casa, non cagarseli, tanto la BCE esiste 365 giorni all'anno, quindi in qualsiasi momento uno può contestarla, può protestarla, mettiamola così, può attaccarla, diciamolo chiaramente. 365 giorni all'anno non c'è bisogno che questi qua vengono a fare il loro comizio del cazzo a Napoli e tutti dietro, tutto il gregge dietro a belare e fare la finta esiste la BCE, perché poi per tutto il resto dell'anno, a meno per quanto riguarda Napoli, di BCE non ne ho mai sentito parlare, né di quest'anno, dell'anno scorso, né di qualche anno fa. Quindi tutta una trovata simpatica, penso che partita da coloro che a Genova nei vertici a cavallo dei primi anni del 2000 andavano a braccetto con gli sbirri, diciamo pure chiaramente questo, gente che i disobbedienti parlo, gente che quando gli sbirri non arrivavano erano loro che andavano a prendere i compagni e li consegnavano. I disobbedienti che avevano come loro punti di riferimento Francesco Caruso, Casarini e Agnoletto. Tre persone che dopo il G8, forse Casarini già da prima, però dopo il G8 tutti e tre sono finiti a sedere in Parlamento, facevano i portaborsa, però sedevano là e a pochi metri sedevano coloro che avevano dato l'ordine dalla questura di Genova di ammazzare Carlo Giuliani. Coloro che hanno pianto per hanno fatto finta di piangere di Carlo Giuliani, che poi si sono sbattuti, si sono presi la vita, hanno succhiato gli ultimi aliti di Carlo Giuliani, se ne sono fatti forte e hanno fatto la loro bella carriera di merda politica. E a questi che servono i vertici, agli anarchici penso che non servono proprio, a noi ci attaccano tutti i giorni, gli anarchici bene o male rispetto al disobbediente non ha bisogno di sapere che esiste la BCE una volta l'anno. Allora, questo un attimo per riassumere, non tirarla per le lunghe altrimenti vi attacco io una pippa, poi ne parleremo pure lunedì, perché poi usciranno nuove notizie, commenteremo pure con Marcello pure questa cosa. Insomma, questo era un attimo per fare il quadro generale per quanto riguarda taser, telecamere indossabili e soprattutto il circo disobbediente, che ora ci andiamo a riascoltare prima del prossimo brano, che è She Passed Away con Kasvetli Kutlama. Accorrete gente, accorrete numerosi al circo. portate i vostri bambini, le vostre bandierine e venite a divertirvi con noi. I saltimbanco, gli acrobati, i clown, gli attori. Siamo tutti uomini e donne cannone, spariamo palle a gogo. Noi nascosto dietro le recinzioni giocheremo con i leoni ed i leoni poi si divertiranno con voi. Se fate troppi birichini i leoni vi sbraneranno e noi diventeremo famosi e faremo carriera sulla morte di qualcuno di voi. Accorrete al nostro spettacolo, accorrete numerosi perché abbiamo bisogno del numero. Accorrete perché ci serve la vittima. Accorrete oggi e se alla fine la nostra maschera cadrà di nuovo, domani votateci ancora. Thank you. E questi erano Shivers Away con il brano Kasvetli Kutlama. Ora si ritorna con una nuova notizia di controinformazione, una vera notizia di controinformazione, perché quella di ieri la classifichiamo tra le pagliacciate che avvengono ogni tanto in Italia, nel mondo, insomma, delle pagliacciate, classificata come pagliacciata. Invece questa è una notizia di controinformazione che arriva da Messico, una cosa importante, perché alcuni compagni detenuti hanno iniziato uno sciopero della fame. Leggiamo il comunicato scritto dagli stessi compagni che hanno iniziato lo sciopero: ai semiliberi, ai popoli del mondo, agli oppressi. Spinti da un sentimento di ribellione, di rifiuto e vero ripudio verso tutti i meccanismi di controllo, tra cui il sistema carcerario, noi, individui anarchici e libertari, nella nostra condizione di prigionieri sequestrati dal governo messicano, abbiamo deciso di utilizzare uno dei pochi strumenti di lotta a nostra disposizione. Lo sciopero della fame, a partire da oggi, 1 ottobre, un anno dopo gli arresti del 2 ottobre 2013, a 10 mesi dal sequestro di Fernando Bersenas e a 9 mesi da quello di Amelie, Carlos e Fallon. Per noi lo sciopero non è un sinonimo di debolezza, tantomeno pensiamo di renderci vittime, ma al contrario lo facciamo come un'alternativa di lotta che consideriamo propizia in una logica di protesta e non sottomissione alla reclusione dei nostri corpi e per l'umiliazione, l'isolamento e la frustrazione che significa essere detenuti in questi centri di terrore. Abbiamo deciso di agire piuttosto che accettare il carcere come una cosa normale. Lo Stato cerca di formare cittadini docili e servili per mantenere il suo ordine sociale prestabilito e quindi in grado di sostenere la struttura della produzione capitalistica vantaggiosa solamente alla classe dominante. Le carceri hanno un ruolo fondamentale nel plasmare questi buoni cittadini e a questa società borghese che in realtà cercano di riadattare i detenuti. Noi rifiutiamo il loro scopo di reintegrazione attraverso il carcere nelle nostre vite. Non solo non lo consideriamo utile, ma è molto dannoso e questo è il motivo per cui abbiamo deciso di continuare con la nostra lotta per distruggerlo, iniziando con piccoli gesti di negazione e non riconoscimento della sua influenza sulle nostre vite. Dichiariamo questo sciopero della fame senza alcuna richiesta o domanda. Non cerchiamo miglioramenti in carcere o delle nostre condizioni. Si tratta semplicemente di ignorare il suo ruolo nella nostra vita, agendo in modo coordinato e solidale. Con la nostra azione accompagniamo la protesta del 2 ottobre a 46 anni dal genocidio di Tlatelolco. Vabbè, là, poi la leggete, è lungo, è Tlatelolco. Fate l'olco, ok, l'ho letto, senza dimenticare o perdonare, ma facendo la guerra fino alla fine dell'oppressione. Non smetteremo mai di aspirare alla nostra libertà, non abbandoneremo la lotta per essa. Il testo è firmato da Jorge Mario González García, che è detenuto alla torre medica del reclusorio di Tepepan, Carlos López Ercivo, reclusorio Oriente, Fernando Bacenas Castillo, reclusorio Norte, Abraham Cortés Avilla, reclusorio Norte. E questo era per quanto riguarda il testo scritto dai compagni che hanno iniziato lo sciopero proprio l'altro ieri, e dopo andremo a leggere anche qualcosa che già inizia a manifestarsi in solidarietà loro. C'ho la lingua tutta attaccata oggi, però quindi mandiamo un brano musicale, mi faccio un altro litrozzo d'acqua e poi si ritorna qui, o leggiamo subito la cosa che è collegata allo sciopero della fame. Non lo so, non c'ho un piano, non c'ho uno schema, e quindi non lo so cosa andrò a leggere. Ora vediamo, per il momento ci ascoltiamo un brano dei Borghesi, una band dell'ex Jugoslavia, non dico il titolo, non pronuncio il titolo perché altrimenti qua si fanno solo figure di merda. Poi dopo si torna qui e si darà una prossima notizia di controinformazione. na mestu, po zakotnih ulicah, pa išći na lažni peti. Pa išći na mestu, po zakotnih ulicah, pa išći na lažni peti. Pa išći na mestu, po zakotnih ulicah, pa išći na lažni peti. Na šećti balon, na šećti balon. Ti balon, sežgane ga olja. Našeć ti balon, našeć ti balon, našeć ti balon, sežgane ga olja. Mi upanja, mi strahu, mi upanja. Questi erano i Borghesia. Ora ci provo, ora ci provo. Ho sentito, brano. Ni upagna, ni strafu. Una cosa del genere. Ora non ci dilunghiamo, non vi farò la traduzione perché sarebbero ulteriori figure di merda. Aspetteremo la compagna croata che dovrà venire prima o poi il venerdì qui a fare le dirette d'azione. Anzi, più che prima che poi, cioè, tra una quindicina, 15-20 giorni sarà qui inciodata e a farmi compagnia per tutte le dirette del venerdì, mentre il lunedì, lo ricordo, le dirette le facciamo insieme a Marcello, in cui ci sono le letture, si sta finendo la lettura di Nazero 13 che si spera di poter far uscire. Mancano i fondi, diciamolo chiaramente, mancano i fondi, e quindi me la sto prendendo comodo, anche perché è una spesa bella grossa, è libro e CD, lo ricordo, andranno benefitta ai compagni, per i compagni di detenuti, non tutti i compagni detenuti, non tutti, per tutti i compagni detenuti, quelli con cui mi ci sento più affine, ovviamente. Invece e quindi spero di far uscire il libro CD a più presto. Ovviamente tolte le spese, perché stavolta la spesa è bella grossa. Invece Marcello sta leggendo Nessuno ci salva di Sergiu Piasecki, lo stesso autore abbiamo letto l'anno scorso, L'amante dell'orsa maggiore. Ora, senza dilungarci in altre stronzate, queste non sono stronzate, stavo dicendo il piano di radiazione, il calendario di radiazione. Quindi ogni lunedì, ogni venerdì dalle ore 17, la diretta del venerdì fino a quando ci sarò da solo e non si può avere un minimo di discussione, pure per evitare le mie pippe a voi che ascoltate, cercherà di non essere, non durare due ore, come non durerà due ore oggi. E poi andrà a ripetizione fino a una certa, si manderà il podcast e poi dopo verrà pubblicato anche sul sito. Allora, dicevamo, non perdiamo di vista lo sciopero della fame dei compagni in Messico, e come non lo hanno perso di vista i compagni che hanno fatto un'azione in solidarietà con gli stessi compagni detenuti. Leggiamo il testo che rivendica l'azione. Nell'ambito delle attività in solidarietà con i prigionieri, abbiamo deciso di attaccare coloro che hanno collaborato alla detenzione di molti dei nostri compagni. Il lavoro di spionaggio svolto dagli organismi di sicurezza dell'università in collaborazione con il sistema giudiziario messicano è fin troppo noto. In relazione agli eventi che si sono verificati nella città universitaria, campus principale della UNAM, il 30 settembre 2014, vogliamo solo dire che non ci fermeremo a scendere in piazza per diffondere l'azione antiautoritaria fino a quando i nostri compagni saranno di nuovo liberi e non avremo finito di distruggere nella sua totalità questa società di sfruttamento. Libertà per i compagni, per i prigionieri anarchici, libertà ora. Mario Gonzalez, Abraham Cortes, Fernando Barcenas, Carlos Lopez, in sciopero dalla fame per l'appunto dal 1 ottobre, Amélie Pertier e Fallon Poisson. Se le loro leggi limitano la nostra libertà, le nostre azioni limiteranno la loro vita. E questo era il testo di rivendicazione contro le auto di vigilanza che hanno collaborato nell'arresto di alcuni compagni durante le manifestazioni, durante alcuni scontri. Ora ci ascoltiamo un altro brano, ci ascoltiamo un brano di Bernes Propaganda. Questo è molto più difficile perché quasi parla di Macedonia. Ora oggi nemmeno, non è una cosa fatta apposta, siamo andati nell'ex Jugoslavia, ma non è una cosa scelta. E poi come mi sveglio voglio sentire quei brani là e metto quei brani là. Il nome della band è Bandes Propaganda, il titolo non ve lo dico, manco morto. E dopo si ritorna qui con una nuova notizia di controinformazione con le sentenze del processo per la doppia rapina di Velveto Cozzani. Vas ti vos foi a pedir os pais. E questi erano i Bennett Propaganda con il brano Ushmi. Basta. Non vado avanti, non lo dico. Allora, passiamo invece alla notizia di controinformazione. Un'altra notizia molto importante, perché in Grecia c'è stata la sentenza contro i compagni arrestati per la doppia rapina con Vevendos e Kozani. Ricordo che un paio di loro non avevano rivendicato la rapina, ma comunque si sono beccati 15 anni di carcere. E poi dopo avremo qualche altro aggiornamento invece dal Cile. Allora, quando riguarda la Grecia, oggi 1 ottobre 2014 molti individui si sono riuniti nell'aula speciale del tribunale del carcere di Korydallos per dimostrare la loro solidarietà ai compagni condannati. I compagni che avevano rivendicato la doppia rapina sono stati condannati per rapina e avvolto coperto, possesso d'armi, tentato furto dell'auto usata per fuggire insieme al suo proprietario tenuto come ostaggio, mentre sono stati assolti per la loro partecipazione alla cospirazione delle cellule di fuoco. Le condanne sono le seguenti: Mihailidis, 16 anni e 4 mesi, Nikos Romanos, Andreas Dimitris Burzugos, Dalios Arsiris, Arisis, 15 anni e 11 mesi, Dimitris Politis, 11 anni e 5 mesi. Il compagno anarchico Nikos Romanos invece è stato recentemente trasferito dal carcere di Korydallos. Sotto l'articolo pubblicato su Radiazione trovate il nuovo indirizzo per chi vuole scrivere a Nikos, quindi basta andare a leggere. Forse solidarietà ai compagni, questo è il testo che arriva dalla Grecia, invece forse solidarietà ai compagni glielo mandiamo anche da qui, da Radiazione. Invece l'altra notizia, l'altro aggiornamento, sempre per quanto riguarda compagni detenuti, si va in Cile, dove Juan Flores, lo ricordo, uno dei tre arrestati, già forse uno non è anarchico, è già... e questo lo mettiamo tra virgolette, perché per il momento anarchici si è definito qualcuno e non tutti e tre. Poi aspettiamo conferme sempre dal Cile. Allora, Juan Flores, la difesa del compagno Juan Flores ha chiesto il suo trasferimento dal carcere Empresa Santiago Unos al carcere di massima sicurezza. Ricordiamo che il compagno Juan è in custodia con Nathalie, detenuta nel centro di sterminio di San Miguel, accusati di una serie di attacchi esplosivi tra luglio e settembre 2014. Lo ricordo, sono inclusi gli attacchi alle metropolitane. Victor Montoya invece, il 26 settembre 2014, l'altro compagno, si è tenuto all'udienza di revisione delle misure cautelari contro Victor Montoya. Dopo aver trascorso più di un anno di detenzione in attesa di processo, a Victor sono stati dati gli arresti domiciliari notturni, nel senso che avrà i controlli degli sbirri durante le ore di notte notturne, fino alla prossima udienza che si terrà il 6 ottobre 2014, quindi tra tre giorni. Speriamo che gli tolgano anche sta rottura di coglioni a Victor e se la possa passare libero e tranquillo, almeno meglio di quanto sta passando ora. Ritornando prima al discorso di Juan Flores, parlavamo di attacchi alle metropolitane. Allora, anche da Radiazione si è detta la propria. Ovviamente non si è messa come è stata messa su siti e su blog in quest'ultimo periodo. C'è un continuo attacco alle persone che hanno fatto l'azione alla metropolitana. Io penso che comunque se c'è stato uno sbaglio nel fare un determinato tipo di attacco in un luogo pubblico, in un luogo dove passano, ci può essere gente comune della popolazione che può rimanere ferita, altrettanto lo sbaglio sta da parte di chi ha scritto paginate di cose contro questi attacchi. Nessuno ha chiamato, non hanno avuto l'invito di nessuno, però tutti si sono sentiti questa ansia in corpo, come mi ricordo all'epoca dell'arresto di Alfredo e Nicola, i puntini sulle i e altre cazzate varie, in particolare i puntini sulle i. hanno sentito la necessità di dire la loro, e non solo in Cile, ma addirittura dall'Inghilterra, dove che cazzo ne possono sapere qual è la situazione in Cile. Allora, finché le critiche arrivano dal Cile, anche se a me non piacciono assolutamente, perché a me, cioè, io l'ho detto a voce, quello che avevo da dire l'ho detto a voce e non l'ho scritto, non l'ho sbattuto sulle pagine del sito, anche perché non volevo unirmi al coro scritto di tanti altri compagni che hanno criticato questa azione. Una cosa è dirla a voce, un'altra cosa è andarla a scrivere per me, e un'altra cosa è andare a criticare, a fare i maestrini, a fare i professori. Questi compagni hanno sbagliato, spero che non sbaglieranno più, e innanzitutto spero che il primo tribunale ancora una volta non arrivi da parte dei compagni anarchici, ma se ci sarà un tribunale, se lasciamolo a quei pezzi di merda di magistrati, le sentenze, le accuse. E in più ricordiamo che Juan Flores, Natalie e Guillermo ancora non hanno rivendicato un cazzo, e anzi di più hanno mentito, hanno rigettato tutte le accuse fatte dalla procura. Quindi andiamoci con i piedi per terra. Ora ci ascoltiamo un brano, loro sono Dean e Todd con il brano Westwork, e poi dopo si ritorna qui ancora con un'altra notizia di controinformazione. Passing by. E questi erano Dine Todd con il brano Westwork. Ora ripassiamo alla controinformazione con l'ultima notizia per oggi, l'ultimo aggiornamento sulla controinformazione per oggi. Poi lo ricordo, subito dopo la fine di questa diretta rimanderemo subito il podcast, visto che è breve, cercheremo di riempire le due ore così. Quindi se sentite salutarmi e vi siete appena collegati con Radiazione, state calmi, state fermi, perché poi subito dopo manderò il podcast, quindi potete riascoltare tutta la diretta d'Azione dall'inizio, dura un'ora e mezza in tutto. Allora, dicevo, ultima notizia di controinformazione: si rimane in Cile, a Santiago, dove gli sbirri lasciano morire una persona dopo un attacco esplosivo pensando che fosse anarchico. Una nota di Radiazione per introdurre il testo che mi è arrivato ieri tramite mail, anche se più volte è stato detto che su questo sito verrà pubblicato solo materiale anarchico e nemmeno tutto, è importante pubblicare il seguente scritto di alcuni compagni anarchici cileni che ci fanno capire bene qual è il clima dalle loro parti. Il testo arrivato dal Cile. Nel mezzo dei festeggiamenti polizieschi e della morbosità di media abbiamo ben chiaro i nostri nemici. All'alba del 25 settembre, intorno alle ore 1 di notte, nel centro di Santiago si è verificata l'esplosione di un ordigno che ha lasciato ferito gravemente Sergio Lanscron Silva, di 29 anni. L'esplosione è avvenuta in strada alle soglie abitanti della zona e la polizia arrivò subito sul posto. In quel momento Sergio Lanscron era a terra avvolto dalle fiamme. Quando gli abitanti stavano per aiutarlo cercando di spegnere il fuoco, la polizia glielo ha impedito, minacciandole di arresto nel caso di intervento. Dopo aver allontanato le persone, la polizia ha spruzzato con l'estintore sul corpo in fiamme e subito dopo, mentre l'uomo era ancora agonizzante a terra, hanno chiuso tutta la zona. La polizia tornò ad invitare gli abitanti disperati e che gridavano per far soccorrere immediatamente il ferito, dicendo che quest'ultimo aveva attivato un secondo ordigno esplosivo. Il gruppo operazioni speciali di polizia, il GOPE, arriva sulla scena dopo 20 minuti impedendo l'accesso dell'ambulanza, esaminando loro stessi il corpo ancora in vita e scartando l'ipotesi di altri ordigni. Finalmente, dopo solo un'ora, Sergio riceve cure mediche e viene portato all'ospedale scortato dalla polizia, dove muore verso le ore 3:40. Non conosciamo le circostanze che hanno portato a questo fatale incidente, non sappiamo se stava manipolando il dispositivo, se lo aveva trovato, se lo stava spostando o se l'esplosione è avvenuta mentre lui passava. In tutta questa confusione e sulla base di alcune informazioni che esistono, si può dedurre che Sergio Lanscron non aveva alcune idee pratiche anarchiche. Ma quando la polizia è arrivata pensava fosse un anarchico e lo ha trattato come tale. Sergio lo hanno lasciato morire e hanno impedito che fosse soccorso, mostrando tutto il sadismo dell'uniforme. Era meglio godere della sua agonia che sapere cosa stava accadendo realmente, scavalcando anche l'intelligence, ostacolandoli nell'ottenimento delle prove. Come scusa medica, cercando di nascondersi dietro un'amministrazione sommaria, hanno detto che per lo stato di salute del ferito non era importante velocizzare i soccorsi. Al di là degli aspetti tecnici, quella notte volevano prolungare l'agonia di quello che supponevano un anarchico agonizzante nelle loro mani. Davanti ai loro occhi c'era il corpo morente di un anarchico e per loro era una vendetta, un regolare vecchi conti con l'ambiente anarchico. Quando si dipende da loro per mettere fine o allungare la vita, non trepidano nel loro sadismo e senza dubbio questo è aumentato per il recente clima di isteria antiterrorismo costruito dal potere. Quella mattina hanno oltrepassato il limite, fotografando il corpo ancora in vita per far circolare le immagini su internet, mostrando la loro perversione all'idea che stavano assistendo all'agonia di un anarchico. La beffa e la festa per un anarchico morto si verifica nella logica degli sconfitti. Quello che non riescono a capire è che non vi è sconfitta nella morte di un compagno in azione. C'è perdita fisica, c'è assenza e dolore profondo. Ma la nostra lotta non è sconfitta con la morte, e quello che non capiscono infiamma il loro odio e disprezzo. Non resteremo zitti davanti al ricordo di un compagno d'azione. Non sopportano il fatto che essi vivano in ognuno di noi nonostante la caccia e la vendetta. Essi detestano e aborriscono la nostra memoria. In tempi di confusione e di informazioni poco chiare, invece di sollevare e perdersi in scuse, cospirazioni e teorie poliziesche, la realtà importante è trarre l'insegnamento. Il nemico ci vuole morti e per questo è pronto a passare sulla loro propria legalità e ideologia umanitaria. Questo atteggiamento non ci sorprende e non lascia sorpreso nessun altro. È un segnale chiaro che il nemico è pronto alla guerra. Questo dovrebbe aiutare ad aprire gli occhi di coloro che hanno dubitato del ruolo dei potenti e dei loro lacchè. Per non perdere l'orizzonte e la prospettiva della guerra sociale, loro sono in guerra, lo siamo anche noi. Niente è finito, tutto continua. Alcuni anarchici, settembre 2014, Santiago del Cile. E questa era, per quanto riguarda l'ultima notizia per oggi di controinformazione, l'ho detto nella nota, è stato preferito pubblicarlo, anche se a quanto pare non è un compagno anarchico la persona morta, però i compagni ci rendono un po' l'idea di quello che sta avvenendo da quelle parti, e non solo da quelle parti, cioè non solo in Cile ma anche in Messico. Abbiamo saputo che il clima non è quello dei migliori, quindi vabbè, mandiamo una tanta forza ai compagni da quelle parti, sperando che riescano sempre a scansarsi il braccio di merda violento della repressione di quegli stati o di tutti gli stati del mondo. Allora, appuntamento a lunedì, quando ne avremo? Ora devo controllare, lunedì 6, dove insieme a me ci sarà Marcello, dove oltre alla controinformazione ci sarà la lettura del Nessuno ci salva di Sergio Piasecki, e si inizierà con la lettura di Nazero 13, letta da me. Lunedì, ore 17, lo ricordo per chi vuole iniziare ad accedere alla radio un po' prima, la radio viene accesa sempre un'ora e mezza prima, con un po' di playlist, e poi nell'ultima mezz'ora mandiamo l'ultima parte letta del lunedì precedente. Così, quando iniziamo la diretta, non dobbiamo stare qui a fare il riassunto delle puntate precedenti. Allora, appuntamento a lunedì. Vi lascio con un brano che ancora non ho scelto, vediamo che brano. Allora, mettiamo un brano dei Yes to Send and Noi Baten, ZNS, che tra l'altro purtroppo ieri è successa la disgrazia, perché Blix è andato a suonare a centro commerciale campagna, e vabbè, esiste anche questo. Appuntamento a lunedì, e lo ricordo, non staccate, perché subito dopo andrà di nuovo in onda la diretta d'azione, il podcast della diretta di oggi. Oh, es tanzt, das ZNS. Stämmerlands, das ist Stämmerlands. Also gut und böse, lass mich nicht umbringen, mach mich stärker, früh durch den Punkt. Es tanzt das ZNS, tanzt das ZNS, tanzt das ZNS, tanzt das Multivitamin. Radio Azione. Radioazione.org. Radioazione. Controinformazione, le cure, provocazioni.